Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, il tema della città è diventato sempre più presente nel dibattito, non soltanto per le vicende politiche che accompagnano la gestione delle città, sindaci incapaci, malavita organizzata, l'attacco, ma anche perché, soprattutto di questo si parla all'estero, le città hanno manifestato una capacità attrattiva molto forte e sono degli esempi di innovazione, dei laboratori di cambiamento urbanistico molto importante. E allora nell'ambito di questo dibattito vi segnalo un libro che ci appassionerà, è un libro di Marco Romano e si intitola La piazza europea, pubblicato da Marsilio, 198 pagine, 19 euro, che affronta il tema appunto della piazza, di questi spazi pubblici che hanno sempre avuto una funzione molto chiara e che oggi sono spesso ridotti a degli spazi incomprensibili per i cittadini. La piazza è stata per secoli, per millenni, l'autentico spazio pubblico della città, dotato di un grande valore simbolico, estetico, urbanistico, e ogni piazza nasceva con una funzione, quella di segnare il centro della città, il luogo del mercato e degli scambi, il luogo della grande istituzione religiosa, di un convento, di una chiesa e tante altre funzioni che si sono poi aggiunte nel tempo. E questo libro ci permette appunto di ricostruire queste funzioni originarie per farci capire il ruolo che la piazza ha assunto e può svolgere anche in futuro. E sentiamo allora l'autore. Buonasera a Marco Romano. Buonasera, dottor Carrubba. Marco Romano, lei parla nella seconda riga del suo libro, subito, immediatamente, parla del disastro della città contemporanea. Ecco, come lo descriverebbe questo disastro? Per mille anni noi siamo andati avanti a costruire le nostre città sapendo, perché si era accumulata una consuetudine, come fare delle belle città. La modernità ha cancellato tutte quelle cose che avevamo maturato nel corso di mille anni e i nuovi quartieri, tutti i nuovi quartieri in Europa, non hanno più quelle stesse, stiamo parlando in questo momento delle piazze, ma non ci sono soltanto le piazze, ma anche le strade, le passeggiate, che hanno reso belle le nostre città. E quindi senza utilizzare quegli elementi che la consuetudine aveva reso importanti per rendere belle le città, ovviamente la parte nuova delle città è brutta. Ecco, vediamo allora le varie funzioni che lei descrive delle città antiche, ci aiuti a scoprirle con alcuni esempi. Partiamo dalla piazza antica alla quale dedica il suo primo capitolo. Oh sì, ma la piazza antica è tutta diversa dalla nostra, perché sia l'agorà greca in realtà era uno spiazzo fuori dell'abitato, poi le città un po' più importanti le hanno circondate, ma le hanno circondate come i fori romani con degli edifici rappresentativi, cioè era messo lì il Pritaneo, era messo lì il Tempio Principale, cioè erano importanti, cioè erano diventate delle piazze importanti, mentre da noi la caratteristica è che le nostre piazze hanno un tema collettivo importante che può essere il municipio, ma poi sono circondate da case normali, da abitazioni normali. La bellezza delle nostre città è di avere per l'appunto un tema centrale riconoscibile e poi essere circondate da case d'abitazione, perché le case d'abitazione sono l'espressione di cittadini che sono comunque il nervo della democrazia cittadina. Ecco, in queste piazze delle città, soprattutto le città italiane, lei per esempio caratterizza la città mercato e le piazze mercato e le piazze Stato. Come possiamo descriverle queste due entità? Ah, il mercato, la nostra civiltà è fondata sul desiderio. E il desiderio delle cose, dei modi di vivere, comporta l'esistenza fin dal 1000 del mercato. La nostra civiltà è fondata sul mercato. Il mercato era uno spiazzo fuori dalla porta, finiva lì. Quando sono state inventate le piazze principali alla fine del XII secolo, dopo Federico Barbarossa, intendiamoci, sono state inventate letteralmente le piazze, cioè prima di allora non si sapeva neanche che esistesse una piazza, cioè uno spazio circondato da case. Quando è stata inventata la piazza principale, allora qualcuno ha detto: ma si potrebbe circondare di case anche lo spiazzo del mercato, che esisteva già. E allora nasce la piazza del mercato, e la piazza del mercato è l'espressione dello stato d'animo dei cittadini europei. Invece la piazza Stato può assumere una... La piazza Stato è un altro problema, cioè quando sono arrivate le signorie, E le signorine hanno detto, ma anche noi, siccome c'era la piazza principale col palazzo del comune, a un certo punto le signorine si dicevano anche loro, anche noi vorremmo una piazza, visto che ce l'aveva il comune, adesso arriva la signoria, vorremmo avere una piazza. Solo che questa piazza le signorie non riuscivano, non sapevano come fare a farla, perché mettere lì il palazzo della signoria e mettergli intorno delle case comuni voleva dire abbassare il senso, non poteva essere così. E quindi oscillano per molto tempo, fino a quando ci saranno delle piazze che sono più decisamente piazze monumentali, cioè con un'architettura monumentale che fa da quadro all'edificio principale, come fosse, facciamo conto, Piazza del Campidoglio a Roma, ecco. In questo capitolo lei nota che i castelli dei signori a un certo punto non vogliono più separarsi, ma anzi cercano continuità con la città, quindi in qualche misura entrano nella città. Certo, ma intanto è successa una cosa bizzarra. È successo che le signorie italiane erano alla caccia di una legittimazione, perché avevano sempre paura delle congiure. Allora, che cosa fanno? Comprano il titolo di duca, lo pagano a fior di quattrini, lo comprano dall'imperatore, e a quel punto però l'edificio che contrassegna la dignità ducale o marchesana è un castello, e quindi si mettono a costruire dei castelli. E ci sono il castello di Mantova, il castello di Ferrara, il castello di Vigevano, fanno tutti i castelli. La cosa curiosa è che vanno in senso contrario a quello che succedeva dalle altre parti d'Europa, dove i castelli li avevano già, e allora la loro ansia era quella di creare, l'ansia dei sovrani, era quella di creare un legame stretto con la città, e quindi di andare a costruire un loro palazzo dentro la piazza principale della città che esisteva, magari di fronte al palazzo municipale come a Bruxelles, oppure di fianco come a Lisbona. L'ultimo capitolo del suo libro è dedicato alla piazza europea. È possibile individuare un modello comune di piazza in Europa? Quelle che ho descritto sono un modello di piazza comune in Europa. Tutte le città europee hanno esattamente lo stesso tipo di piazze. Se lei prende su e fa una vacanza da qualche parte, entra in una città e può con sicurezza distinguere le stesse piazze che io le ho descritto nel libro. Si riconoscono tutte, ci sono tutte. Il problema dell'ultimo capitolo è questo, che c'era sempre una forte migrazione da una città all'altra, ma quel signore che emigrava da una città all'altra trovava nella nuova città esattamente le stesse cose che aveva lasciato nella sua, e quindi si ritrovava, diciamo così, dal punto di vista simbolico a casa sua. Mentre i migranti che stanno arrivando adesso arrivano da paesi dove non sono mai esistite le piazze, e quindi non hanno il conforto dell'integrazione simbolica, cioè sono lì come stanno nella città come se stessero nella savana, per dire, a casa loro. Non è che nei paesi dai quali provengono non siano state importate nell'ultimo secolo delle piazze sul modello europeo, ma sono una, come la cargo cult, no? La cultura del cargo, nel senso che si prendono da un'altra cultura e si trasportano nella propria cultura delle cose che non hanno più il senso originario, che hanno un altro senso. Sono la piazza del Duomo a Milano è come una radura nella savana. E tornando e concludendo sul disastro di cui parlavamo all'inizio, le nuove piazze sembrano essere purtroppo ridotte al modello della rotonda. Questa è un'idea abbastanza curiosa, perché credo che ci sia stato un finanziamento dell'Unione Europea per costruire da qualsiasi parte queste rotonde, e siccome gli assessori alla provincia non sapevano cosa fare, hanno disseminato il paese di rotonde. La cosa curiosa è che queste rotonde sono diventate il luogo dell'espressione artistica, cioè si trovano dei veri e propri, ma proprio volutamente delle cose che pretendono di essere opere d'arte. C'è di tutto sulle rotonde. È una cosa curiosissima. Ma piazze spesso non sono perché non ci sono le case. No, non ci sono le case, non è neanche una piazza perché nessuno si fermerebbe a entrare lì dentro. Non ci puoi entrare, nessuno ci può entrare a piedi. Solo che è diventata l'esibizione di una volontà formale, di forma, che non ha un, come dire, che costituisce un universo del tutto nuovo. Diciamo che è un'ulteriore esemplificazione del degrado del potere rispetto ai signori. Ma neanche tanto del potere. Proprio non mi sembra esagererei a parlare del potere. Non nobilitiamole troppo. Nobilitiamole troppo. Sono, a parte il rischio che ormai qualche volta si corre, però è stata un'invenzione dei francesi, questa qui dei rondò al posto dei semafori. Ha avuto un grande successo, adesso lì dentro, siccome sono dei posti raggiungibili, si vedono le cose più curiose. Io credo che qualcuno abbia scritto un libro, quantomeno ha letto un articolo proprio su questo argomento. Approfondiremo. Grazie a Marco Romano, autore de La Piazza Europea. Buona serata. Grazie a lei. E di architettura si parla nel libro di Mark Kushner, La forma del futuro, 100 edifici che cambieranno la nostra vita, è pubblicato da Rizzoli, 178 pagine, 16 euro, ed è curato da Jennifer Crickles con la traduzione di Daniele Didero. L'autore è il fondatore di Architizer, che è una piattaforma online dedicata agli architetti, e qui scrive un libro per spronarci, spiega, a chiedere di più all'architettura, visto che questa, l'architettura, domina in parte e determina la vita di ciascuno di noi, che vive le proprie giornate all'interno sempre di un'architettura della quale è fatalmente condizionato. Oggi è in corso una rivoluzione, spiega l'autore, anche democratico, nel senso che la gente vuole dire la sua, trovare edifici che corrispondano ai propri orientamenti di vita. E allora questi 100 edifici esemplificano appunto questa tendenza. Essi sono raggruppati in varie categorie: i luoghi estremi, le reinvenzioni dei luoghi, i luoghi che ci fanno stare meglio, le forme inconsuete, l'edilizia naturale, l'edilizia legata all'automobile, i ripari dalle tempeste, i luoghi ristretti, i catalizzatori sociali, i simboli dell'avanzamento veloce. E qui troviamo un edificio italiano, il padiglione italiano all'Expo di Nemesi e Partners, che secondo l'autore rappresenta una grande innovazione tecnologica, perché diventerà un purificatore dell'aria per la città, con la facciata di calcestruzzo che cattura gli agenti inquinanti atmosferici per trasformarli in innocui sali che vengono poi lavati via dalla pioggia. E adesso sospendiamo per un attimo, ci sentiamo fra qualche minuto. La Fed ha sorpreso i mercati con il rimando della exit strategy monetaria. Sembra intenzionato a ricoprire il gap ribassista apertosi a inizio ottava. I dati deludenti anche su questo fronte dovrebbero accelerare il processo di attuazione del quantitative easing della BCE. Quando si parla di economia hai il mal di testa? Prendi Focus Economia. Ogni giorno l'appuntamento con l'attualità economica spiegata in modo chiaro, diretto, senza giri di parole e senza sconti per nessuno. Da assumersi tutti i giorni, lontano dai pasti. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Da lunedì a venerdì alle 17. Solo su Radio 24. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Un salto nella nostalgia ci fa fare Isabella Bossi Fedrigotti con Quando il mondo era in ordine, pubblicato da Mondadori, 118 pagine, 14,90 euro. Qui troviamo il ricordo della giovinezza che diventa l'occasione per rievocare ambienti e atmosfere spariti, quelli per esempio nei quali si facevano rigorosamente a casa le marmellate, il burro, la ricotta, e i bambini si abituavano a raccogliere le uova o a pescare i gamberi, tutte abitudini che impercettibilmente cominciarono a un certo punto a entrare in crisi a partire dalla sparizione sulla mensa domestica al venerdì del pesce allevato in giardino. Insomma, si cominciava a insinuare, ci racconta l'autrice, una forma strisciante di consumismo che, scrive, permetteva di acquistare cose anche non davvero necessarie, che segnò una rivoluzione, quella secondo la quale i genitori si sentirono sollevati dall'incombenza di segnare le spese sul fatidico quadernetto giallo da computisteria. Naturalmente qui non si parla soltanto del ménage familiare, ma si descrive un quadro sociale che appariva anch'esso immutabile e codificato e che invece impercettibilmente andò cambiando in pochissimo tempo. Sentiamo per esempio la descrizione, la difficile descrizione della professione del padre. Sapete? Sapevamo che le madri e i padri dei nostri compagni di scuola facevano tutti i mestieri di persona e ne ammiravano le abilità, peraltro regolarmente descritte nei temi di scuola intitolati La mia mamma o Il mio papà, laddove noi ci dovevamo scervellare per inventare per i nostri genitori qualche attività manuale paragonabile a quelle enumerate negli elaborati degli altri alunni. Taglia le rose in giardino oppure lava le sue calze era al massimo che potevamo scrivere della mamma senza imbrogliare. E del papà, un po' vergognandoci alla consegna del compito, soltanto cammina in campagna, perché non sapevamo bene in che cosa consistesse il suo lavoro, sempre ammesso che ne avesse uno. E l'unica nostra certezza era che non faceva come altri padri il panettiere, il maestro, il dottore, il pittore, il fabbro, oppure il calzolaio. Forse il contadino, visto che camminava appunto tra le vigne, osservandole, toccandole, fermandosi ogni tanto. Trovandosi una volta nel corso di un compito in classe dedicato appunto alla professione del papà, uno di noi in difficoltà, con la penna sospesa davanti alla pagina ancora quasi completamente bianca, la maestra, impietosita, era venuta in soccorso e dopo breve confabulare aveva ordinato di scrivere ingegnere. Una grande dama della società italiana, Marella Agnelli, ci racconta una certa Italia, un'altra Italia, vista dalla prospettiva di una famiglia importante, quella alla quale appartiene l'autrice, i Caracciolo di Castagneto, destinata a unirsi a un'altra altrettanto importante famiglia, quella degli Agnelli. E Marella Agnelli rievoca quel mondo nel libro La signora Gocà, è pubblicato da Adelphi, 236 pagine, 12 euro. Gocà si riferisce ai primi anni della fanciullezza, quando Marella gioca con Carlo, il futuro editore dell'Espresso, fratello, e questa parola nasce dalla risposta che dà la madre al figlio che vuole giocare e si è travestito da signora. La madre risponde «She will go to the car» e da qui viene la parola «gocà» che diventerà un gioco di scoperta che fa scoprire anche a noi un mondo assai riservato e discreto. Troviamo qui varie tappe della vita della principessa fino a Roma, riscoperta all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, una scoperta che così Marella Agnelli ci descrive. Compì 18 anni quella primavera. La guerra era finita. Come se si fosse stappata un'immensa bottiglia di spumante, era scoppiata la pace. Come mille bolle in aria, era la voglia prorompente di godere della nuova libertà, della fine di un incubo prolungato, la voglia di divertirsi. In quell'atmosfera scatenata, sulle ali della buona stagione, io facevo la bella vita con José. Con i primi caldi, per le strade, nelle piazze, in discoteche improvvisate negli scantinati, si ballava giorno e notte. In the Mood di Glenn Miller o Night and Day e il Boogie Woogie, naturalmente. Imparammo a raggiungere il mare con mezzi di fortuna e il pomeriggio, ubriache di sole, di benessere, con i sandali ancora pieni di sabbia, sedevamo a lungo da Giolitti, in via della Dataria, ad assaporare i ritrovati gelati. Prendevamo possesso della città in tutti i suoi angoli, perdendo il tempo nelle gelaterie, i bar, i night club improvvisati, le balere fuori porta. Infine, spesso all'alba, mi riaccompagnavano in via Panama. Non avendo ancora diritto alla chiave, mi arrampicavo alla luce del lampione sulle sbarre orizzontali del cancello piacentiniano e raggiungevo senza difficoltà il terrazzino del primo piano, dove dalla finestra lasciata aperta sgusciavo nel mio letto, che era poi il lettino di una delle mie cugine. Marella Agnelli è una grande esperta di giardini e anche fotografa di giardini, allora associo a questo libro quello del responsabile del giardino forse più famoso al mondo, quello di Versailles, di cui si occupa dal 1982 Alain Baraton. Il suo libro si intitola Il giardiniere di Versailles, è pubblicato da Schirà, 218 pagine, 17 euro, ed è tradotto da Luca Scarlini. Il libro parte da un evento drammatico, la tempesta che nel 1999 distrusse gran parte del parco, abbattendo piante secolari e sconvolgendo tutto il giardino. All'inizio il disastro sembrava pressoché irreparabile anche per l'impegno finanziario enorme che appariva necessario, anche perché Versailles assorbe già molte risorse pubbliche che vanno soprattutto però al palazzo, non al giardino. E invece il salvataggio riuscì, e qua ne troviamo la storia. anche se, ci spiega l'autore, ci vorrà molto tempo prima che il giardino torni a quello splendore iniziale. Oggi, scrive Baraton, lascio giardini nascenti in cui trovo grazia, ma non ancora fascino. Ci vorranno ancora molte cure, soprattutto molto tempo perché tornino a essere belli. Ma questo giovane parco promette bene e io ne sono già fiero. E dal parco troviamo qui la storia, strettamente intrecciata con quella dei sovrani, della storia di Francia. Proprio per questo Versailles rischiò molto durante la Rivoluzione francese. Fu praticamente saccheggiata, completamente svuotata. La prospettiva era quella che venisse messa all'asta, ma il giardiniere di allora, Richard, ebbe un'idea che salvò castello e parco. Infatti consigliò di dedicare questa grande risorsa a nutrire il popolo e quindi a dividere il terreno in appezzamenti per la coltivazione, e questo salvò l'unità del parco. Un libro sulla dimensione esistenziale del giardiniere e più in generale del rapporto con la natura è quello di Duccio Demetrio, che è stato docente di filosofia dell'educazione all'Università di Milano Bicocca e oggi è direttore scientifico della Libro Università dell'Autobiografia di Anghiari. Il libro si intitola Green Autobiography, la natura è un racconto interiore, pubblicato da Book Salad, 348 pagine, 15 euro. E si parte qui proprio dall'elogio dei giardinieri, con la citazione dello scrittore francese Jacques Lacarrière, che diceva: l'arte di curare i giardini non consiste soltanto nell'addomesticare la natura e la sensibilità per i giorni che verranno, l'aspetto che più è bello coltivare. Un giardiniere, infatti, è uomo o donna dell'avvenire, poiché è sempre avanti di una stagione o anche di due. Ma questo non è un libro sui giardini, piuttosto ci invita a vivere, a costruire e anche a raccontare una vita più armoniosa con l'ambiente e dunque ad adottare stili e ritmi di vita diversi. Chissà che non l'abbia anche letto il Papa per la sua enciclica sull'ambiente. E a questo punto il confettino. Un albero può essere il simbolo di una rinascita, come nel caso di Sef, un bambino africano emigrato in una periferia italiana, una periferia moderna e squadrata, nella quale un albero, appunto, frondoso, sotto il quale raccontare storie, gli consente di far rivivere un pezzo di Africa in cortile. Il libro si intitola L'albero delle storie ed è di Gabriele Clima, illustrato da Alberto Madrigal, pubblicato da PM, 192 pagine, 19 euro. Ultimi arrivi. Innanzitutto un celebre mito, una celebre favola, quella di Peter Pan, che viene riscritta da Vittorio Andreoli, un noto psichiatra. Il libro pubblicato da Rizzoli, 150 pagine, 11,50 euro, e ha le illustrazioni di Arthur Rackham. Qui Andreoli difende Peter Pan, che è conosciuto in Italia piuttosto per la sindrome che porta il suo nome, che ci fa perdere di vista invece l'autentico significato della fiaba alla quale lo scrittore ci vuole farvi accostare. Poi segnalo il libro di un grande scrittore italiano, Giorgio Manganelli, Catatonia notturna, pubblicato da Aragno, 144 pagine, 12 euro. Questo è un trattato anonimo scritto nella metà degli anni 60 sulla notte. La notte pensata, amata, odiata, fuggita, ma soprattutto ipotetica, ipotizzata, come ce la presenta nella prefazione la figlia dell'autore, Lietta Manganelli. E infine, di un altro nome molto noto, Stefano Benni, vi segnalo Cari mostri, Feltrinelli, 250 pagine, 17 euro, dove troviamo un ironico testo sulle possibili fattezze che può assumere il male. Con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, Valeria Bernardi, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, unlibro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.